sia fatta la tua volontà, sulla terra come in cielo. Venga il tuo regno nelle nostre vite, nella pace eterna. Amen, amen, così sia. A te la gloria per sempre. Amen, amen, così sia. Vieni Signore, regna su di noi. Sì, vieni Signore Gesù, il mio cuore ti aspetta nella fede.